Presidente nazionale della relazione di questa Presidenza di questa sessione e per l'ampia partecipazione con le istituzioni di questo bellissimo convegno, per ragioni sostanziali, cioè perché noi riteniamo che bisogna dare un contributo alla memoria come concetto e come riflessione. Forse c'è stata troppo nel nostro paese una memoria fatta di solo ricordi e di solo celebrazioni. Vorrei poi un'occasione per riflettere, per ragionare, è un'occasione che io ritengo importante. Importante certamente gli storici che loro mi chiedono, ma è importante anche per la nostra associazione che ha tra i suoi scopi la memoria. E tra i suoi scopi odierni nella fase attuale ha lo scopo di fare una memoria riflettuta, ragionata, e questo è un dato molto importante ai fini della creazione di una memoria che speriamo che un giorno possa diventare collettiva e non sarà possibile avere una memoria condivisa che è l'obiettivo più lontano e più grande. Nella sessione di quest'oggi è capitato, come voi sapete, che la relazione, diciamo in qualche modo introduttiva, della professoressa Rossi, che riguardava l'azione allo sbaglio, quindi a mancare, e in qualche modo si sente la necessità non di sostituirla, perché nessuno potrebbe pensare di sostituire una studiosa che si è dedicata praticamente a 8 settembre. Volumi notissimi, hanno avuto varie edizioni, con ricette molte edizioni, ma con un'inquadratura dei problemi che si pongono rispetto a questo anno, definito nel nostro titolo l'anno della svolta, e rispetto a momenti particolari di questo anno, che è l'8 settembre, che dovrebbe essere qua. Però molto rapidamente, cominciamo perché ci si intenda una brevissima rassegna delle date di questo anno. E io faccio perché, giustamente, credo che ho intitolato il convegno l'anno della svolta, però per esempio in questo stesso momento si sta svolgendo in un altro luogo un incontro di studi intitolato l'anno dell'attesa. Tra queste due denominazioni, tra questi due titoli c'è già un dibattito enorme che è retrostante, di cui io voglio dare l'impressione subito immediata solo elencando alcune date, quelle che di questo anno della svolta sono le date da tenere presente. Allora, marzo, gli scioperi economici per la prima volta nella storia dopo il ventennio. Sono degli scioperi economici che molti dei fascisti e dei prefetti definiscono però già come degli scioperi su cui già fare attenzione perché hanno anche un contenuto che non si può opporre. Il 25 luglio è la caduta del fascismo. Il 26 luglio, voglio ricordare che quello diventerà poi uno dei personaggi più noti della resistenza, Tuccio Galimberti, lancia un appello perché sarà necessario combattere contro i tedeschi. È soltanto un'indicazione che cade poi comunque nella incertezza di quel periodo, però è un'indicazione importante, un'altra che ho seguito. Ad agosto ci sono ancora degli scioperi che sono però più dichiaratamente politici. Il 2 settembre c'è una data che spesso non viene ricordata in questa parte, che è importante. A Roma si stipula il primo accordo sindacale del dopoguerra, noto come accordo Bozzi-Mattino, che ricostituisce le commissioni interne che hanno dato abolite. L'8 settembre c'è quello che tutti sanno, è l'armistizio, assunto per alcuni giorni, poi viene comunicato nel modo che tutti credo sappiano. Forse in modo peggiore per comunicarlo, in ritardo e con un qualche imbarazzo, con estrema incertezza, ed è il momento in cui dai cui hanno potuto parlare addirittura della morte della patria, perché è una fase di narrazione che trovo davvero preoccupante, c'è un generale disfacimento dello Stato come Stato e dell'esercito. Poi bisogna vedere se è vero che è la morte della patria o no. Io per esempio sono uno di quelli che non ci credo, questa espressione che la trovo sbagliata. Il 9 settembre, tanto per parlare di morte della patria, il 9 settembre viene costituito il primo comitato di liberazione nazionale. Ed è una data anche questa importante da segnalare, vuol dire che sta rinascendo la politica e che dei partiti si incontrano per studiare e organizzare attività. Il 12 settembre il generale Kesselring fa una dichiarazione che è importante da ricordare, perché di fronte a un armistizio della dichiarazione di Badoglio in cui si capiva ben poco, Kesselring si fa capire benissimo e dice che l'Italia diventa territorio di guerra e tutto via questi tedeschi avrà conseguenze nefaste. Il 23 liberato Mussolini si ricostruisce la Repubblica Sociale Italiana, il 29 c'è l'armistizio unico, il 14 ottobre la dichiarazione di guerra negli anni ci hanno imposto di fare per avere poi la qualità di belligeranti. Tra le date direi che ricordiamo il 1 dicembre l'appello di Concetto Marchetti ai giovani per la lotta. E poi il resto di settembre non è più fatto un dato particolare da segnalare, perché è il momento in cui si comincia a formare tra gli sbandati, tra gli altri, il colonnello Montagna, si comincia a formare quella che poi sarà chiamata la resistenza vera e propria, secondo che inizia un po' prima. Diciamo, questo è l'anno. L'anno che basta elencare queste somme per dire che non è un anno d'attesa e che la parola svolta deve essere intesa in molti significati. Una svolta nel senso che cade il fascismo, è una svolta nel senso che cade il regime, ma è una svolta anche perché dalla passività in molti casi si passa anche a un'attività, a una reazione sostanzialmente diversa. Quello che interessa per arrivare al momento culminante, quello dello sbando, sono le parole del comunicato di Badoglio, sempre l'8 settembre, quando è proprio costretto dagli eventi, sa che se non parla più saranno finalmente gli alleati, e fa questo comunicato in cui annuncia l'armistizio e praticamente non dà nessun ordine, dice semplicemente che si dovrà reagire a qualunque attacco possa venire da forze esterne. Un ordine così dato all'esercito italiano in patria e ancor più e peggio all'esercito italiano all'estero è un ordine nefasto, perché lascia tutti senza un'indicazione precisa. Da qui comincia a nascere quello che è considerato appunto lo sbando, nel senso che l'esercito praticamente si sfascia, non ci sono comandi, non ci sono direttive, non si sa se si deve combattere contro i tedeschi, in quale posizione esatta ci si trova, non si sa come si deve reagire, e quindi una situazione di disfacimento che favorisce tutti a casa c'è un noto film che di questo si è occupato. E lo Stato come tale, una volta che sono fuggiti i vertici, i re, i Badoglio, sono andati nel sud in Italia, poi alla fine a Brindisi, lo Stato non c'è più, non esiste più un'organizzazione, è il disfacimento di quello che c'era in questo momento. Da questo punto di vista lo sfacelo, lo sbandamento generale è un dato pacifico, reso tanto più grave dal fatto che mentre non ci sono ordini e non c'è un piano su quello che si dovrebbe fare nell'eventualità di un armistizio e così via, c'era il piano sulle tedeschi, quale da da tempo hanno intercettato notizie abbastanza precise per quanto riguarda le cosiddette trattative che ci sono state per arrivare all'amnistia, o cosiddette perché le trattative ci furono lunghe, complesse e così via, però la controparte aveva un'idea precisa che si dovesse arrivare a una resa incondizionata, per cui non c'era da trattare nulla, c'erano dei tentativi di ottenere qualche cosa, ma con estrema difficoltà. I tedeschi avevano fatto il piano AXE, per cui erano in condizione di momento opportuno di intervenire. Il momento opportuno venne subito di fronte allo sballamento generale, tant'è che è accaduto che in molti luoghi, in molte città, dove c'era anche una concentrazione di forze notevoli, dove le nostre forze avrebbero potuto essere soverchianti rispetto ai tedeschi, successe invece il contrario, cioè che i tedeschi occuparono, fecero prigionieri, affondarono la corazzata Roma con tutto il suo equipaggio, e fu un disastro anche da questo punto di vista. A maggior ragione disastro ci fu all'estero, dove questi soldati, che erano poi molti soldati e ufficiali, si trovarono in una condizione disperata, nel senso che avevano i tedeschi che incombevano e erano preoccupati, particolarmente in certe zone dell'estero, di avere rapidamente il controllo della situazione prima che arrivassero a dar mano gli alleati. Gli alleati erano incerti e indecisi sulle operazioni da compiere, quindi praticamente non dettero aiuti a nessuno, e quindi ci fu questa situazione in cui si trovarono praticamente abbandonati a se stessi. Vedremo fra un momento che cosa fanno. Quindi nazione alla Svanda, lo dico riassuntivamente, la professoressa Grossi ha dedicato a questo in parte della sua relazione, come ha fatto nel suo libro minuziosamente definendo, io non ho tempo e quindi do per certo che ho conosciuto in parte poco che i lettori sono per me. E chiedendomi subito perché c'è questo sbando, questo dilagare del disorientamento, dello sbandamento, e poi ci sono una serie di fattori. Uno, c'è stato un repentino cambiamento di fronte. Eravamo alleati con i tedeschi, improvvisamente ci troviamo da una parte che non è ancora la controparte, però non siamo più alleati con loro, ci sono gli alleati che incombono con i quali facciamo una amicizia. È caduto il fascismo che già dopo il 25 luglio aveva lasciato una grande incertezza. Il 5 luglio ci fu una grande illusione, grandi feste perché è finito il fascismo, grandi feste di molti perché è finita la guerra, poi per questo ho citato le parole di Galimberti, perché sono parole profetiche. Galimberti capisce che non è vero, che è finito tutto, si può tornare a casa tranquilli, si ricomincerà in qualche modo, e dice sarà necessario combattere ancora, la guerra continua in sostanza. Questo repentino cambiamento di fronte crea disorientamento, sbandamento, ancora una volta un desiderio di pace di tratta finita, e quindi uno stato d'animo che non è certo favorevole da questo punto di vista a mantenere le cose almeno a un livello di normalità. Questo è favorito anche molto dal fatto delle incertezze degli organismi dirigenti, perché se i vertici non danno ordini, non hanno un orientamento preciso e fanno in modo di dare indicazioni molto sommarie e precise, quando da Cefalonia e da altri luoghi chiamano e chiedono ordini precisi, indicazioni precise, praticamente le risposte non vengono o sono criptiche, sicché vale la regola che ci si deve in qualche modo arrangiare. Qui c'è incertezza, c'è una responsabilità enorme del fatto se in una situazione simile se ne vanno, scappano i vertici dello Stato, è una responsabilità gravissima perché praticamente lasciano il paese solo. Questo dimostra non solo irresponsabilità ma anche incapacità, anche la incapacità di prendere in mano in qualche modo la situazione anche in via transitoria per fare cose straordinarie, ma almeno prevedere qualche cosa e anche, se mi permettete, una certa indifferenza. Questa è una responsabilità molto maggiore, perché dovevano pensare almeno questo, che cosa succederà di questi militari, di questi ufficiali che si trovano all'estero con un testo di sovrastro, e anche a Roma, anche in Italia, che cosa accadrà di questo? Porsi questo problema. C'è come una sorta di indifferenza, per altra parte poi decine di migliaia di prigionieri, e in qualche luogo andrà ancora molto, molto peggio, come si sa, e non ci sono interventi, c'è improvvisazione, c'è incapacità. In una situazione del genere è abbastanza logico che il militare ufficiale in qualche modo si senta legato a qualche cosa, a un giuramento fatto anche, oltretutto fatto a un re che è scappato, è anche un giuramento un po' che diventa discutibile, però c'è questo legame che in qualche modo tiene in piedi qualche problema. Il militare che fa? Il militare cerca di abbandonare la divisa e tornarsi a casa in questa situazione. Pensa che in questo sbando generale c'è veramente, come è stato scritto da uno studioso del periodo, un clamoroso naufragio di una classe politica che, dopo aver condiviso il fascismo per 20 anni di potere, si dimostra incapace di assumere una qualsiasi decisione che sia meno vergognosa della fuga. E la dissoluzione dell'esercito, in qualche modo la dissoluzione del paese, ne è una conseguenza assolutamente immediata. Dove poi questo autore, secondo me, comincia ad essere tanto condivisibile, è quando dice che la fuga del re, la dissoluzione dell'esercito, si lascia alle spalle una moltitudine in preda a propensioni e istinti primordiali, che vedono insieme l'istinto di sopravvivenza e uno spontaneo moto di solidarietà verso gli sbandati, i prigionieri in fuga. Qui io avrei piano, farei attenzione, perché penso che non sia vero che sia stato tutto solo dissoluzione e sbandamento. Penso che sia stato qualcos'altro, e di qualcos'altro non si può fare niente. Poi vedrò, perché non preoccupatevi se mi attardo qualche minuto in più, assorbo già qui alcune delle cose che avrei detto come discusso, perché guadagneremo tempo in questo senso, ma mettiamo sul tappeto quali sono i problemi in sostanza. Sono contrario all'idea che sia morta la patria e che lo sbandamento sia stato totale, e che, come uno studioso, uno storico, ha dichiarato nel suo libro recentemente, l'Italia del silenzio, perché non è vero semplicemente che c'è stato il silenzio. Non c'è stato forse una ondata consapevole di rivolta in generale, però ci sono stati mille episodi che fanno pensare che non tutti erano tutto a casa e non tutti erano sbandati e non sapevano più che cosa fare. In realtà, quindi, se vogliamo dire che è morta la patria nella concezione fascista della patria, cioè la concezione retorica, eccetera, questa è finita, forse addirittura del 25, va bene, vogliamo dire che è morta la patria come patria, nel senso non retorico della parola, allora bisogna tenere conto di altre cose, cioè che ci sono episodi di rivolta spontanea in giro per l'Italia, che certo, analizzati col bilancino del poi, possono apparire poco, e però il bilancino del poi non è giustificato nemmeno storicamente, bisogna mettersi in quella condizione. Allora Piombino, per dirne una, Piombino in cui, di fronte alla prepotenza dei tedeschi che vogliono occupare il porto, insorgono insieme marinai, guardie di finanza e cittadini, fanno le barricate e per un giorno e mezzo conquistano Piombino. Poi arriveranno delle corazzate tedesche con forte sovrappiante, si riprenderanno il potere. Però che cos'è questo? Non è il desiderio di tornare a casa, è un impulso di ribellarsi alla sopraffazione e all'occupazione. Vogliamo non usare parole grosse? Non diciamo se tanto di atti di eroismo, non mi interessa l'ottimizzazione, mi interessa. interessa il fatto che questo a più prima c'è stato, più tardi ci saranno le quattro giornate di Napoli, anche queste nate spontaneamente. E queste non possono essere dimenticate, né le parti all'estero. Sono le cose veramente importanti, perché a Cefalonia, anche se qualcuno ha cercato poi di sminuire questa storia, queste migliaia di militari e ufficiali si trovano isolati e si trovano con i tedeschi di fronte con forze soverchianti, anche le forze aeree, con tutti i mezzi impiegati perché si arrestano. E alla fine la resa non c'è. La resa non c'è. Qualcuno ha ironizzato il contatto di questo generale Gardini, che avrebbe esitato per dei giorni, cercando ordini da Roma che non ebbe. Io lo trovo veramente vergognoso che si possa speculare su questo. Ma che cosa deve fare? Primo di ordini con migliaia di uomini, sottomettersi ai tedeschi sapendo benissimo quale sarebbe stata la conseguenza, sapendo che sarebbe stata anche una cosa ingiusta, obiettivamente, da fare. Cercava una soluzione. Alla fine, quando viene il momento opportuno, il generale Gardini fa una comunicazione in cui dice che non si accetta la resa ai tedeschi e dice una cosa: per ordini superiori e per volontà dei soldati e degli ufficiali. Cioè ha fatto una sorta di piccolo referendum, ha consultato tutti e è una cosa inusitata, che dimostra la delicatezza della situazione, però dimostra la buona volontà di questo generale che in una situazione del genere cerca comunque di mantenere salvo almeno la dignità e l'onore di un esercito che non vuole arrendere senza conto, perché finisce male, come è noto, perché i tedeschi non accettano questa posizione di dignità e fanno fuori gran parte degli ufficiali, fuori dei militari. Non è l'unico episodio, ci sono altri a Corfù. In Albania e in Jugoslavia ci sono situazioni analoghe, ci sono molti casi nei quali elementi dell'esercito cercano di unirsi ai partigiani con qualche difficoltà, perché i partigiani, che sono già partigiani in azione, in servizio, l'ho descritto anche ieri qual era la situazione già in atto e con quali propositi nei paesi balcanici, hanno una certa diffidenza per questo esercito che viene dal periodo fascista, che non sanno se possono fidarsi, però tuttavia finiscono per andare con loro in alcuni casi combattere insieme. E le rivolte, io ho accennato a Pinfino, per esempio, che è in qualche modo esemplare nel fatto della cosa che forse qualcuno può dire inutile, perché dopo un giorno non è preso, si riprendono più con un criterio che io non accetto, che se si pensa al calcolo algoritmo e alla utilità o meno di certi gesti, bisogna negare tutta la resistenza, perché la resistenza è stata tutto questo, complesse grandi azioni fatte contro un nemico soverchiante, uno degli esercizi più forti del mondo, senza fare campo e cercando di ottenere alcuni risultati che mai avrebbero potuto vincere. Però solo quelle che io ho ritrovato sono rivolte di alcuni reparti dell'esercito, avendo una politica che si assume a Savona, di Roma, di Teramo, Bari, Napoli. C'è una rivolta a Roma breve, una rivolta di Porta San Paolo, tentativo di difesa mentre i comandanti abbandonano alla resa la città, però c'è una parte della città che reagisce. E allora di tutto questo si può dire è morto tutto, c'è il silenzio solo con questi fatti, ma questi fatti se ne aggiungono molti altri. Questo istinto primordiale di cui parla l'autore di prima, che metterebbe insieme la disaffezione e lo sbandamento insieme a una primordiale solidarietà, Beh, poi è così primordiale il fatto che ci siano dei cittadini che vedono dei soldati che rischiano di essere fatti prigionieri, che i soldati che sono riusciti a cercare di andare a casa abbandonando la vita, trovando altri civili, e gli diano un aiuto. Non è una cosa da considerare invece positivamente come un atto di solidarietà, non primordiale, ma di solidarietà effettiva e umana, che viene usata anche con gli ex prigionieri abbandonati al loro destino, che cercano in molti casi di raggiungere lì per superare e congiungersi agli alleati, e ricevono aiuti in mille modi. Io potrei dare testimonianza di quel periodo. C'era, sono uno di quelli che di questa solidarietà hanno beneficiato, perché quell'esercito di sbandati, poi ce n'era una parte che andò a casa, ce n'era una parte che furono definiti sbandati anche loro, erano semplicemente quelli che posti ad Albiglio, se andare con la famiglia di Salone oppure scappare, nascondersi, fare qualcosa di diverso, si sbandarono e vissero un primo periodo cercando qualche cosa, prima di nascondersi e poi di trovare altri. Ed è così, man mano che si formarono anche le prime bande partigiane. Questi sbandati, se sono sopravvissuti anche fisicamente, è perché contadini generosi li hanno aiutati, perché in qualche caso li hanno sfamati, in qualche caso li hanno avvertiti quando arrivava un rastrellamento. Allora, anche questo, io non lo chiamerei distinto primordiale, direi che la parte buona del nostro paese, nonostante le tante dittature, sente un senso di solidarietà e pensa che sia doveroso, in qualche modo, esprimerla in varie forme. E si ricorda ancora in molti casi che nelle città in cui tragicamente passano dalle stazioni delle tradotte che portano già i deportati, che vengono portati altrove, ci sono dei cittadini, dei popolari, delle cittadine, dei popolari che corrono cercando di portare sollievo. Qualche volta vengono respinti semplicemente perché offrono un bicchiere d'acqua o un bagno, ma anche questo è una cosa che fa parte di qualcosa che deve essere ricordato. E poi c'è tutta, nelle nostre studi storici su quel periodo, parlo di studi di tutti, nel senso che qui io non sono uno storico, l'ho premesso all'inizio, ma sono uno che si è appassionato agli studi storici di quel periodo, mi ha fatto un motivo di ricerca personale, per una ragione, se volete, banale, perché mi sono reso conto che il peggior testimone della resistenza nel suo complesso è chi c'era, se non riesce a vedere il quadro generale, perché ognuno di noi potrebbe raccontare e può raccontare la sua piccola esperienza, ma il fenomeno era estremamente complesso ed era estremamente difficile in quel periodo avere perfino notizie su quello che avveniva altrove. Io vi dico soltanto una cosa per vari motivi: io mi sono trovato a finire la guerra con la divisione Cremona nel corpo italiano di liberazione, proprio da queste parti, in questa zona, e non ho visto materialmente il 25 aprile, vado tutti gli anni nella piazza di Milano in particolare a celebrare il 25 aprile, io non l'ho visto semplicemente perché il mio pezzetto di resistenza in quel momento era essere all'esercito italiano, liberare uno dei tanti paesi o cittadini dei vari rami del Po, dove non c'era insurrezione ma dove c'era questa liberazione che arrivava, per di più italiani, sudamericani, eccetera, che non sono fatti festosamente, ma non c'era l'insurrezione, non c'era l'ingresso glorioso di partigiani a Milano, fotografato, riportato dappertutto. Ho visto quel pezzetto. Se non si studia tutto insieme, non si ha l'idea della complessità della resistenza e di quello che è stata. In questa complessità bisogna tenere presente anche che si è dato troppo rilievo alla resistenza armata, che è stata sempre oggetto della maggiore attenzione. C'è stata una resistenza non armata che è stata importantissima, e del quale bisogna tener conto, perché la resistenza non armata è stata quella, diciamo, dei solidari che hanno espresso solidarietà e in qualche modo hanno fatto anche loro una forma di resistenza. C'è stato l'atteggiamento di coloro che appunto hanno fatto rivolte, reazioni immediate, e c'è stato poi questa formazione degli sbandati con motivazioni estremamente diverse. C'è il soldato che cerca di tornare a casa, c'è il giovane che non vuole obbedire alla leva che gli arriverà da Salò e si sbanda, si nasconde e poi trova la fine degli altri, che magari ha soltanto un'ansia di libertà e di non andare comunque con gli oppressori, niente altro di questo, e poi maturerà nel tempo, entrando nella resistenza, entrando a contatto con gli altri fascisti di prima, entrando in contatto con altri e diventando poi in seguito una persona matura. Io credo che tutto questo, unito al fatto degli scioperi, unito al fatto degli accordi sindacali, unito alla costituzione del Comitato Nazionale, impedisca di parlare soltanto di sbandamento. C'è un gran dibattito in questo tema, su questo tema, nel senso che alcuni dicono decisamente di stata la morte della patria e basta, poi la resistenza è venuta dopo. Ci sono altri che dicono l'8 settembre in realtà è un discrimine, perché quel giorno finisce la vecchia patria ma comincia il discrimine. E ci sono alcuni che negano che questo si possa fare. Ci sono altri ancora, e la conclusione del nostro libro della professoressa Rossi, la quale conclude dicendo poi è in qualche modo inesatto considerare i due estremi, perché la verità è nel fatto che le varie cose sono intersecate, si è intersecato lo sbandamento e il disfacimento insieme con degli atti di risposta. Ci sono poi anche alcuni che dicono l'8 settembre è in realtà l'inizio anche della resistenza. Io su questo punto vorrei essere chiaro. La resistenza non ha e non può avere un certificato di atto di nascita, perché essendo un fenomeno complesso, sorge per mille rivoli e in tante forme, e in giorni che non sono esattamente definiti. Certo, quegli atti che ho ricordato sono già atti di resistenza, e anche il rifiuto della guerra e il rifiuto di sottomettersi ai tedeschi fa parte di questo quadro. Per cui credo che sia arrivato forse il momento di abbandonare i pregiudizi in un senso o nell'altro. Da un lato abbandonare il pregiudizio della morte della patria, la fine, la dissoluzione, il silenzio, l'attesa, che proprio non mi sembrano corrispondere alla realtà. Dall'altra parte forse abbandonare anche l'eccesso che c'è stato in un certo periodo, anche da parte nostra, di trovare la glorificazione, diciamo, la mitizzazione degli atti in tutto, che ha una giustificazione anche questo. La resistenza è stata attaccata dai primi giorni dopo che era finita la guerra, ha avuto tante vicende, tante denigrazioni, c'è stata una necessità in un certo periodo anche di difesa sostanzialmente, però insomma c'è stata in varie forme e in varie modi. Credo che oggi sia il momento in cui si possa dire che dobbiamo avere uno sguardo complessivo sulla situazione e dire che c'è stato lo sfascio, c'è stato lo sfaldamento, ma c'è stato anche il principio in varie forme di quello che poi diventerà il riscatto. Il principio fatto in forme anche elementari, però il principio che si poteva avere è dopo. 20 anni di dittatura, dopo che c'era stato quel comportamento degli organi gerarchici, dei vertici, non tanti che sommarissimamente indicato, e quindi fu riscatto di guida del reputo e che poi è stato l'avvio in qualche modo di quella che è stata la resistenza armata e non armata. Credo che questo sia tema di discussione importante, e quindi credo di poter fermare a questo punto e passare alle relazioni. Se non erro, la prima relazione è del professor Marco Pizzi. Uno dei volumi, devo dire in Italia forse non troppo noto perché è uscito in francese, in appunto con una casa editrice belga, ma che aveva un titolo di giudizio molto interessante, era più di un arcigliato del precedente italiano. Quindi se in realtà poi l'Italia è stato un precedente di qualcos'altro, precedente di che cosa, naturalmente, precedente fondamentalmente poi della guerra fredda, per caso italiano, serve per capire la fine dei rapporti tra gli anglo-americani da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra. Come cercare di dare delle risposte a questi interrogativi? Ma prima di tutto io credo che sia, cercherò di essere, di andare velocemente, spero di non perdere troppo tempo, prima di tutto dobbiamo cercare di capire come si sia voluta la posizione da un lato della Gran Bretagna e dall'altro degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia, specialmente a partire dal coinvolgimento italiano nella guerra, quindi a partire dal 1940. Prendiamo in considerazione la posizione inglese, ma non dobbiamo dimenticare che i rapporti tra Italia e Gran Bretagna fino alla seconda metà degli anni 30, devo dire dalla unificazione, quindi dal risorgimento in avanti, vengono considerati, infatti possiamo considerarli come dei rapporti veramente buoni, positivi. Tra la Gran Bretagna e l'Italia non erano mai state particolari ragioni di frizione, durante il periodo fascista sappiamo tutti che l'atteggiamento di gran parte della classe politica inglese verso il fascismo è stato di, se non di sostegno, quantomeno di comprensione, perché di fronte al fascismo era risolto un problema, che era quello del pericolo rivoluzionario, del pericolo bolscevico. Parto sempre dal presupposto che naturalmente gli inglesi non avrebbero mai accettato il fascismo a casa loro, ma che per l'Italia tutto sommato il fascismo poteva andare. Le cose naturalmente sappiamo che sono cambiate con la crisi d'Etiopia, ma al di là della crisi d'Etiopia poi soprattutto l'intenzione del fascismo di creare problemi agli equilibri imperiali inglesi nel Mediterraneo e in Africa. Per ricordare la questione della propaganda filo araba di Radio Bari negli anni 30. Che cosa accade al momento dell'ingresso in guerra dell'Italia nel 1940? Io credo che in questo caso c'è un cambiamento importante e radicale nella posizione inglese verso l'Italia. Perché cambiamento radicale? Ma perché, devo dire, in fondo ciò che cambia è tutta la politica. Vedete, l'Italia è un nemico, un dato di fatto. Ciò che cambia è il riemergere di tutta una serie di schemi mentali, di stereotipi, di percezioni che probabilmente gli inglesi hanno sempre avuto nei confronti dell'Italia e soprattutto nei confronti degli italiani, dell'Italia. Io appunto in un saggio uscito un po' di anni fa su Diplomacy and Statecraft esaminavo, devo dire, l'atteggiamento psicologico e culturale dei funzionari del Foreign Office nei confronti dell'Italia dalla seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni 50. E c'era questo commento che uno può prendere nei diari di Sir Alexander Cadore, che alle diplomatiche del 1940 ricordiamo che adesso finalmente possiamo dire che cosa pensiamo di questi tagli. Pubblico l'atto del corretto. Io devo dire che in fondo gli inglesi hanno una conferma della loro cattiva opinione dell'Italia e degli italiani. Successivamente, gli italiani sono un nemico e non dimentichiamoci, tra 1940 e 1943 la proprietà dell'Italia è una nazione unita. Gli italiani poi, lo dire molto spesso, dire qua Filippo Focardi ci potrebbe ricordare molto facilmente hanno messo da parte tutto questo, ma per gli inglesi forse era un po' più difficile mettere da parte il fatto che gli italiani nel 1940 nel momento per loro più difficile hanno dichiarato guerra appunto agli inglesi, all'impero britannico, e che in fondo l'Italia desiderava mettere in discussione il ruolo dell'impero britannico. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. E al contempo senza essere capaci di essere un nemico serio. I tedeschi sono un nemico, ma un nemico serio. Gli italiani sono un nemico, e hanno persino l'aspetto peggiore per gli inglesi di non essere un amico serio. Mussolini vuole partecipare al bombardamento su Londra, questo resta nell'opinione dell'immagine della percezione del popolo inglese e dell'opinione pubblica britannica. Potrebbe leggersi il Parlamento e vedere il Sotterhouse of Commons per questi anni e vedere qual era il vero atteggiamento degli inglesi verso l'Italia, verso il popolo italiano. Con le richieste dobbiamo bombardare Venezia, perché in fondo loro hanno voluto bombardare Londra, non ci sono nemmeno riusciti, ma lo volevano bombardare, perché noi non possiamo bombardare Venezia, quindi, mettendo da parte qualsiasi considerazione persino di carattere, per dire, culturale. Sul piano politico che cosa accade? Accade qualche cosa su cui appunto vado molto rapidamente, nel senso che nel 1940-1941 in fondo gli inglesi ritengono per un lunghissimo periodo di tempo che a seguito delle sconfitte, delle incapacità italiane di condurre la guerra sul piano militare, per dire da Taranto alla Grecia, alla prima offensiva britannica in Africa settentrionale, in Italia, due divisioni inglesi sconfiggono 10 divisioni italiane, partendo quasi per caso sconfitta tutta la Cirenaica, partendo da questo per un lunghissimo periodo di tempo, in questi casi al primo posto, forse l'Italia può già chiedere una pace separata. È un'opinione che spinge Churchill addirittura fino al 1940-41 ad alcune idee che adesso ci possono sembrare abbastanza strane, ma che naturalmente un po' la mentalità di Churchill. Andiamo alla ricerca di un debole italiano, favoriamo la nascita di un'Italia libera. È una cosa che dura pochi mesi, il debole italiano non si trova, le valutazioni anche dei servizi segreti britannici sullo special operation executive sono molto negative, sono pessimistiche, a fine dei conti si va alla ricerca di un rigore italiano, i prigionieri, gli ufficiali presi prigionieri, la prima offensiva in Africa settentrionale, il commento dei funzionari dello Special Operation Executive è ma i soldati italiani si avvengono facilmente, ma non è detto che ci sia poi un sentimento antifascista e nessuno vuole creare una legione italiana o un'Italia libera, e meno che meno vogliamo generare a finalizzare questo compito. Detto questo, c'è un'evoluzione della posizione soprattutto del Ministero degli Affari Esteri e del Foreign Office, che non dimentichiamoci, dalla fine del 1940 posta sotto la guida di Anthony Eden. Anthony Eden, devo dire, anche personalmente non ha una grande simpatia nei confronti degli italiani, ma al di là di questo, devo dire, delle questioni, delle sue opinioni personali, diciamo che nella primavera del 1941 il Foreign Office dedica molta attenzione alla situazione italiana e anche alla situazione interna, perché si pone la questione: esiste un'alternativa al fascismo? C'è qualcuno che può far cadere Mussolini? La risposta è no, non c'è niente di tutto questo. L'Italia, la conclusione è, l'Italia non è mai stata una grande potenza, l'Italia è semplicemente un satellite della Germania italiana, tutto sommato, però questo ci fa comodo, perché l'Italia diventa da soggetto un oggetto della politica estera inglese. Questo significa che si può fare quello che si vuole, e quindi si usa l'Italia, ad esempio, nei rapporti con gli alleati minori della Gran Bretagna. Fin dal 41 gli inglesi cominciano a fare promesse al governo jugoslavo in esilio, al governo greco in esilio, sistemeremo alcune questioni internazionali, daremo una diversa soluzione al confine orientale. Il dodecaneso sicuramente ritornerà, andrà alla Grecia, e visto che ci siamo, naturalmente difenderemo dei nostri interessi, quindi la fine dell'impero coloniale italiano, la sostituzione dell'influenza inglese a quella parte di influenza che l'Italia esercitava nel centro-Italia in Africa. E devo dire che questa posizione non cambia. La posizione inglese resta fondamentalmente la stessa fino al 1943. Che cosa possiamo tradurre, cioè cosa possiamo esprimere questa posizione in una politica? È sostanzialmente la politica della pace pulita. In altri termini, l'Italia ha sbagliato, gli italiani sono colpevoli e dovranno essere puniti per quello che hanno fatto. La punizione, tra l'altro, sarà molto utile perché rafforzerà il ruolo imperiale della Gran Bretagna nel Mediterraneo e in Africa. È una visione, devo dire, molto tradizionale. L'unica posizione, voglio dire, di un grande impero coloniale con responsabilità globali, a cui l'Italia ha creato dei fastidi e che viene considerata nella giusta prospettiva. In fondo per alcuni anni l'Italia è riuscita ad ingannarci mostrando un volto di grande potenza, ma non lo è stato. E quindi noi non facciamo altro che darle e dare le conseguenze. E questa posizione devo dire in realtà è questa, che fondamentalmente non cambierà fino al 1947, fino al trattato di pace, in alcuni casi non cambia fino alla metà degli anni 50. Qual è la posizione americana? La posizione americana naturalmente è diversa, ma è diversa in maniera, devo dire, va specificata. Io su questo non sono d'accordo, non sono mai stato, non dobbiamo essere d'accordo con tutti, neanche con i colleghi che stimano, ma non sono mai stato d'accordo con l'idea che durante la seconda guerra mondiale sia esistita la politica americana autoritaria. Nel Regno Unito non esistiva una politica americana autoritaria, non mai esistita. Politica americana verso l'Italia ha cominciato a prendere forma probabilmente tra 1946 e 1947, non prima. Qual è la politica che gli Stati Uniti fanno nei confronti della sua Italia? Generalmente è la politica nei confronti della comunità italo-americana, una cosa diversa dalla politica verso l'Italia e il futuro dell'Italia. Cosa intendo dire? Intendo dire che se noi esaminiamo la politica rooseveltiana, l'Italia è importante per Roosevelt. Per Roosevelt l'Italia ha un classissimo rilievo. Le posizioni che Roosevelt prende nei confronti dell'Italia sono delle scelte legate alla politica interna americana, in larga misura. Proviamo a pensare alla dichiarazione del 1940 sullo Standing Deck, famoso discorso dopo la dichiarazione di guerra italiana alla Gran Bretagna e alla Francia. Roosevelt tiene questo discorso e dice: ah, gli italiani hanno fatto questo, è uno step in the back, quindi è una pugnalata del Papa. Poco dopo i suoi consiglieri gli dicono: guarda, siamo nella campagna elettorale, questo costa decine di migliaia di voti degli italo-americani. Da quel momento Roosevelt non c'è più niente sull'Italia, fino all'elezione del 1940. Il problema italiano tra il 40 e il 41 per Roosevelt è il problema del timore di una quinta colonna fascista all'interno della comunità di origine italiana. E quello che lo spinge tra l'altro a prendere sul serio gli esuli antifascisti, almeno per un certo periodo di tempo, a prendere sul serio Sforza, la Frida, la Mazzini Sociale. Nel dicembre del 1941 Roosevelt si accorge che tutto questo non ha senso. La comunità italo-americana fa la scelta più giusta e più ovvia. Da allora al domani, quasi tutti i filofascisti, in 24 ore, tutti i rooseveltiani, a favore degli ideali americani, e naturalmente tutti a presentarsi agli uffici di reclutamento per primi, per formare a favore di Roosevelt della democrazia e della propria patria, della propria patria. Ottobre 1942, la dichiarazione sugli enemy aliens. I 600.000 cittadini italiani residenti negli Stati Uniti non sono cittadini stranieri, nemici, ma sono cittadini friendly, amichevoli. Quando la si fa, pochi giorni prima, o più o meno al periodo del Columbus Day, e pochi giorni prima delle elezioni di mezzo termine. Questo è il senso, se vogliamo, della politica rooseveltiana nei confronti dell'Italia. Indirettamente, certo, anche nei confronti dell'Italia, ma come strumento di politica nei confronti della comunità di origine italiana. Cambia qualche cosa tra il 1942 e il 1943? Certo, alcune cose cambiano. Prima di tutto, dopo lo sbarco in Nord Africa, soprattutto dopo la conferenza di Casablanca, si decide che ci sarà lo sbarco in Sicilia, e quindi l'operazione Husky. E a questo punto Stati Uniti e Gran Bretagna sono coinvolti insieme nel Mediterraneo e sono coinvolti insieme nelle vicende italiane. Ma non dimentichiamoci che cosa si decide anche a Casablanca. Si decide la dichiarazione sulla conditional surrender, quindi sulla resa senza condizioni, che è un'iniziativa molto chiara e che non riguarda, o riguarda solo parzialmente la Germania, la Giappone e l'Italia. In realtà la dichiarazione sulla resa senza condizioni riguarda i rapporti con l'Unione Sovietica. In fondo è il tentativo di Roosevelt di rassicurare Stalin: stiamo facendo seriamente la guerra, non faremo il secondo fronte in Francia nel 1943 perché non possiamo farlo, però dimostriamo di voler fare la guerra fino in fondo senza secondi fini, senza andare alla ricerca di accordi. C'era stato solo poche settimane prima l'accordo con Darla, non dimentichiamocelo. Quindi una visione di lungo periodo, una visione che riguarda i rapporti tra Pechino e Grande. Noi sappiamo anche qual è la posizione inglese. Churchill non è convinto di inserire l'Italia nella resa senza condizioni, ma non perché amasse l'Italia o perché volesse salvare la monarchia. Churchill la monarchia italiana pensava abbastanza poco, forse ovviamente pensava di là. Ma perché è una visione di grand strategy. Se noi ci manteniamo nelle aree libere del Mediterraneo verso l'Italia, questo probabilmente ci permetterà di proseguire anche dopo lo sbarco in Sicilia una strategia nei confronti di quello che è il ventre molle dell'asse, quindi il Mediterraneo e l'Europa meridionale, perché questo rientra nell'ambito della nostra visione strategica di carattere plurale, quella appunto dell'impero britannico. Io credo che non ci metto mai in realtà l'impero britannico quando parlo della seconda guerra mondiale, perché è una visione imperiale. Sappiamo come è andata a finire, in realtà l'Italia rientra nella condizione sorrenda. E questo perché? In realtà il gabinetto inglese che viene interpellato da Churchill dà una risposta che è negativa. È il Foreign Office che dice no, che non ci interessa, tutto sommato la nostra politica è una politica politica, quindi l'Italia rientra nella condizione sorrenda. E entra il vice primo ministro, da buon laburista, dice noi stiamo facendo una guerra antifascista. Quindi per noi Mussolini, militare fascista, è simile alla Germania nazista e al Giappone, non c'è nessuna differenza. Naturalmente la posizione inglese quindi resta tale e non cambia nel corso di tutto il periodo fino sostanzialmente a luglio del 1943, quindi fino all'operazione Asti, fino all'attacco in Sicilia, tanto è vero che tra la fine del 1942 e la primavera del 1943 noi abbiamo tutta una serie di tentativi di pace separata fatta da tutta una serie di personalità italiane, come dire dalla monarchia, probabilmente Badoglio, industriali, alcuni fascisti cosiddetti moderati e così via, e dal loro punto di vista chi è l'interlocutore utile? Beh, l'interlocutore utile non può essere come adesso che gli Stati Uniti si conoscono poco con volontà, la visione dei nomi politici e diplomatici italiani è una visione eurocentrica, l'Europa è centro del mondo delle relazioni internazionali. Allora l'interlocutore è ovviamente la Gran Bretagna. La risposta in inglese non ce ne importa niente. Tutti questi sondaggi di pace vengono messi da parte, archiviati, registrati, archiviati, e dove no, a questo posto non c'è niente da fare, non c'è niente da negoziare. Quello che ci interessa è, il termine molto interessante, no, Italy out of the world, cioè cacciare fuori l'Italia dalla guerra, attraverso un'operazione militare nel fondo della Sicilia e attraverso un'intensificazione dei bombardamenti sulle città italiane. Questo è ciò che ci interessa. L'Italia deve essere eliminata dal conflitto. Se l'Italia è eliminata dal conflitto, la Gran Bretagna in fondo comincia ad ottenere uno dei suoi obiettivi imperiali nel Mediterraneo. Questa è la posizione inglese. Churchill ha un po' più, diciamo, di inventiva, di fantasia, diciamo, di flessibilità, ma tutto sommato prevale la posizione del Foreign Office. Cambia qualche cosa la posizione statunitense? Cambia nel senso che gli americani vogliono avere una voce in capitolo, rifiutano l'idea che nell'operazione Husky, quindi dello Stato in Sicilia, ci sia una prevalenza degli inglesi, quindi una senior partnership inglese, l'idea è una equal partnership. Unità inglesi e americani sono sullo stesso piano, però non dimentichiamoci cosa in fondo riescono a far passare le autorità americane. Fanno passare l'idea che le operazioni militari sono di competenza prevalente dei militari, quindi sono, se vogliamo, le necessità dei militari che devono prevalere. Non dimentichiamoci, la posizione di Roosevelt durante la seconda guerra mondiale era la seguente: i problemi del dopoguerra si risolvono nel dopoguerra, durante la guerra si cerca di risolvere i problemi di natura militare. Voi direte strano, in realtà è solo fino a un certo punto così, dal punto di vista del politico l'idea è piuttosto creiamo gli strumenti che ci serviranno per creare un ordine internazionale del dopoguerra. Non parte NOS, Bretton Woods, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale, questa è la visione, c'è una visione mondiale, globale, una grande potenza è uno dei tanti problemi che si presentano. Un'altra prova, gli inglesi hanno una visione politica, non è solo una militare, cercano di inserire l'aspetto politico nella gestione della, del governo militare alleato, dell'IMG, e quindi riescono a convincere gli americani che ci sia una, che ci siano due consiglieri politici, due political advisor accanto ad Eisenhower, che ha la responsabilità militare delle operazioni contro la Sicilia. Qual è la differenza? Gli inglesi nominano Harold Macmillan, che è una personalità di spicco del partito conservatore, giovane, già importante, lo nominano poi ministro presidente britannico del Mediterraneo, una specie di proconsole inglese del Mediterraneo, cioè nel Mediterraneo non in Italia. E dall'altra parte gli americani dicevano Robert Murphy, che è un diplomatico abile, però con la realtà è quello di secondo piano. Cosa aveva di importante per gli americani? Beh, che era di origine irlandese e che era cattolico. Quindi tutto sommato, insomma, poteva andare bene. Cosa cambia nell'America? Beh, cambia la propaganda. Nella propaganda c'è, l'Italia c'è, ed è una visione già positiva. Gli italiani possono essere recuperati, ma anche in questo caso è una visione propagandistica, è uno strumento, non è il fine della politica americana verso l'Italia. Certo, gli italiani pensano che sia il fine, che sia la realtà della politica, in realtà sono uno strumento della politica, e come ho detto, una politica in anche generale. E l'altra questione è il mantenimento, se vogliamo, dei buoni rapporti nei confronti della comunità italo-americana, che si sta integrando grazie alla guerra e che, non dimentichiamoci, rappresenta una delle basi della coalizione elettorale che fa vincere Roosevelt alle elezioni presidenziali, la comunità irlandese, la comunità italiana, i cattolici, i sindacati, eccetera. Soprattutto perché gli italoamericani sono importanti in alcuni stati chiave, ad esempio lo stato di New York. Se si ha la propria parte gli irlandesi e gli italiani, in questo periodo, e adesso è quello che è, naturalmente in quel periodo significava si porta via tutti i cambi elettori dello stato di New York, che non è una cosa, ovviamente da poco si suol vincere le elezioni. Elezioni presidenziali. Permettetevi solo un paio di, e poi vado verso le conclusioni, un paio di aneddoti sulla propaganda. Chi mi chiedeva anche io appunto la passione di utilizzare i film e il cinema, e due film di propaganda vecchia, uno molto vecchio, l'altro un po' meno, sono appunto che hanno avuto grande successo, una casa blanca. Tutti sapete che in Casablanca nella prima versione c'è anche un piccolo cameo che è la figura dell'italiano, che la figura è sull'edicolo, si presenta quando arriva il colonnello Strasse e in accolta a Casablanca c'è l'ufficiale italiano di collegamento a Casablanca che cerca di farsi strada, di farsi notare, scodinzola, ma come dentro a tutti, e nessuno lo prende in considerazione. Nella versione che poi verrà fatta circolare in Italia, questa parte viene tagliata, cioè non la versione originale, ma la parte italiana non c'è. Secondo film, sempre del 42, Sara, sempre con altri luoghi, è Tremonti, un attore, veramente lui è l'eroe, tutti gli alleati sono eroi, combattono in Nordafrica, naturalmente prendono due prigionieri, uno è un tedesco, il secondo è un italiano. Il genere tedesco è naturalmente la raffigurazione del tedesco, alto, biondo, ariano e razzista. Il prigioniero italiano è basso, grasso, con i baffi, vestito male e dice queste parole più o meno. Ma io non so perché sono in guerra. Che fai? Io non mi interessa la guerra, mi interessa mio moglie, i miei figli, a me piace lavorare, sono una persona. E naturalmente salva gli alleati e viene ucciso dal tedesco, quindi è un eroe, però è un eroe poverino, cioè un eroe inconsapevole, e l'immagine fondamentalmente è quella dell'italo americano medio, o meno l'immagine uomo in là dell'italo americano medio. Questo devo dire è la visione propagandistica. Nella realtà che cosa accade nel 1943, vi giungo diciamo alle conclusioni. Non voglio affrontare la questione del 8 settembre perché è stata affrontata e voglio dire non voglio sostituire una bella che fosse sinceramente una tematica ben ampia, precisa. del 1943 per gli alleati, o meglio, le autorità italiane, un attore politico italiano, non l'Italia in se stessa, l'Italia come teatro di guerra. Noi sappiamo che l'Italia come teatro di guerra è importante per gli inglesi fino sostanzialmente a terra. Quando a terra si decide per il secondo forza, l'Italia è la più importante, è un caso di guerra secondaria. Gli americani tolgono le loro truppe migliori e le mandano in Gran Bretagna perché devono andare nell'operazione militare seria, che ora è lo sbarco della Gambia, questo è quello che conta. È importante per gli inglesi? Ma per gli inglesi l'Italia è importante, certo, perché fa parte di quel rafforzamento della posizione imperiale dell'Italia per il Mediterraneo. L'attore politico italiano è importante per gli inglesi? No, non è assolutamente importante. Badoglio e Re sono importanti? No, sono importanti per una sola ragione, non perché sono un'alternativa conservatrice. Non c'è quasi niente, se andiamo a vedere i documenti, non c'è nulla che ci dica si sta già pensando nella prospettiva della guerra fredda. Sono importanti perché hanno firmato l'armistizio, e l'armistizio, sia quello corto ma soprattutto quello lungo, è la garanzia dell'imposizione di una pace punitiva che risponde e coerente con gli obiettivi imperiali. C'è qualche cosa di guerra fredda probabilmente nell'estate del 1944, quando Churchill visita, fa visita a Roma, e contemporaneamente c'è diciamo la repressione dell'insurrezione di Varsavia, e di Churchill comincia a porsi, e alcuni diplomatici inglesi e qualche diplomatico americano comincia a porsi la questione che cosa accadrà dopo la fine della guerra nei nostri rapporti con l'Unione Sovietica. Ma questo devo dire veramente molto tardi, a partire dall'estate del 1944 e non prima. Quindi le mie conclusioni, appunto, le domande precedenti sono l'Italia è stato un elemento importante nella politica inglese e nella politica americana, è stato un elemento importante nella strategia di guerra inglese, un elemento di minore importanza o di relativa importanza nella strategia di guerra americana, è stato un elemento importante nella politica imperiale britannica, ma non nella prospettiva della guerra fredda, è stato un elemento secondario della politica americana, senza che vi sia molto di prospettiva della guerra fredda. Le posizioni inglesi e americane sono cambiate a secondo delle vicende italiane dell'estate del 1943, ma sono cambiate in parte per ciò che riguarda le scelte di natura militare, questo certamente sì. Rovesciamolo dalla parte italiana, è stato importante tutto questo, ma io dico sempre è stato importante per l'immagine che gli italiani, metto da parte la classe politica italiana del fascismo, ma gli italiani sono fatti degli anglo-americani. Gli inglesi forse non sono gli interlocutori migliori per il secondo dopoguerra, gli americani sono gli interlocutori migliori per il secondo dopoguerra. Sulla base di cosa? Non sulla base della politica estera di Roosevelt, non sulla base delle scelte fatte dagli Stati Uniti fino al 1945, ma sulla base del fatto che la percezione degli italiani nei confronti dell'America nasceva da un mito già precedente, si è rafforzato con la presenza dei militari americani in Italia e probabilmente sulla base del fatto che le truppe americane con le dovute eccezioni si comportavano in maniera diversa rispetto alle truppe dell'intero britannico. Non che in cambio voglio dire si comportassero come i tedeschi, ma sappiamo benissimo che l'esercito americano era l'esercito di civili in divisa, come il professor Bernard Rutgers, e in linea di massima un po' di italo-americani erano nell'amministrazione militare alleata, e naturalmente basta pensare al concetto di Charles, colonnello Charles Poletti, e Charles Poletti, non dimentichiamocelo, nella vita civile faceva vice governatore dello Stato di New York, quindi era suo interesse dire delle buone parole, mostrarsi simpatico verso gli italiani, perché naturalmente questo mi sarebbe stato utile una volta che sarebbe tornato negli Stati Uniti alla vita civile e naturalmente a raccattare fondi tra la comunità italo-americana, più il fatto che l'esercito americano, come sappiamo, è l'esercito di un paese possibilità, sono vero che vi sarete d'accordo che io ho anticipato alcune cose che avrei detto come discussione. Quindi faremo più breve la parte che voglio dire per più spazio per la discussione delle cose e ricordare adesso qualche minuto la parte. Grazie. Terminologia, questa nozione che in un paese riduzione delle sfere di influenza sovietiche. Questo è un po' il problema. Tutti sono d'accordo sul fatto che ovviamente che ci sia stata una duplice linea di intervento sovietica verso l'Italia, così come anche verso tutti gli altri paesi europei, e cioè una linea diplomatica e una linea rivolta ai partiti comunisti. La prima volta alla verifica dei rapporti e delle strategie, come dicevo, con gli alleati, la seconda volta alla ricerca di una credibilità nazionale, l'acquisizione della credibilità nazionale dei partiti comunisti in tutta Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Diciamo la interazione, addirittura l'interdipendenza tra queste due motivazioni, queste due linee politiche, è un elemento che viene in modi diversi, ma comunque viene riconosciuto da tutti gli attori, diciamo, che hanno affrontato negli ultimi 20 anni la nostra apertura agli archivi sovietici questo argomento. Il problema è naturalmente appunto che questa interazione può essere interpretata in modi diversi, e qui è un po' inevitabile seguire il percorso della linea sovietica, cioè dal momento in cui comincia a manifestarsi un certo interesse per l'Italia, cioè fondamentalmente la conferenza di Mosca dell'autunno del 1943. C'è una precisazione necessaria da fare che viene giustamente fatta da Dinolfo e Serra, cioè occorre in questa interazione della duplice politica sovietica tenere anche molto conto dell'interazione dell'Unione Sovietica con la politica degli alleati, e in particolar modo questi autori hanno sottolineato l'importanza del veto opposto da Churchill all'iniziativa di Roosevelt per l'idea di Roosevelt per l'abdicazione del re, questa iniziativa è già troppo, che avrebbe aperto la strada all'iniziativa sovietica, anche se l'Italia, in realtà, come abbiamo sentito da Varsovia, non era così prioritaria neanche per gli Stati Uniti. Il punto è come si arriva all'apertura a Padova, no? Questo è un po' una questione centrale, che è in una certa misura già presente alla conferenza di Mosca. Però prende 3 mesi di tempo, 4 mesi e 4 mesi di tempo, diciamo, per essere realizzato. Allora cerco di procedere per punti, però qui è inevitabile entrare nel contesto di una documentazione. Vi chiedo perdono, capisco che può essere anche un po' noioso, ma ci sono delle questioni da puntualizzare che riguardano proprio l'uso dei documenti e la loro rilevanza. Mi pare che ci sia un consenso abbastanza generalizzato sul fatto che alla conferenza di Mosca si stabilisce una interazione tra la linea della diplomazia e la linea verso i partiti comunisti, sull'idea, diciamo, della riorganizzazione, questo è il termine che viene usato, del governo Padova. Qui il documento più rilevante è sicuramente, a mio parere, ma non solo a mio parere, una lettera di Togliatti a Dimitrov del 14 ottobre del 43, in cui Dimitrov, per esempio, Togliatti possa protestare per il fatto che il governo sovietico sembrava non ascoltarlo abbastanza, per abbastanza le sue richieste per il rientro in Italia, sostiene che nel caso di un invito ufficiale da parte di Badoglio, i comunisti difficilmente avrebbero potuto opporre un rifiuto alla partecipazione al governo. Dice evidentemente, questo è prima della conferenza di Mosca, subito prima della conferenza di Mosca. Quindi c'è evidentemente un collegamento, inutile cercare di stabilire le priorità, ha detto prima Togliatti, ha detto qualcun altro, questa è la documentazione che noi abbiamo. C'è la cosa importante. secondo punto è ovviamente la famosa missione militare di Cassini. In realtà sono due missioni. Oggi sappiamo qualcosa anche sulla prima, che era stata, diciamo, rimasta oscura per molto tempo, ma fondamentalmente sappiamo dell'atteggiamento italiano, e molto meno, anzi praticamente niente, di quello sovietico. Il punto fondamentale invece del dibattito fondamentale riguarda la seconda missione, perché a questa seconda missione di Vichinsky viene assegnato, in realtà già da epoca molto precedente agli anni 90, e poi successivamente è stato ripreso e elaborato in vari modi, anche con nuove documentazioni però di parte italiana, molto meno di parte sovietica. Comunque a questa missione è stato attribuito seconda missione, il momento fondamentale del 1944, in cui sostanzialmente viene anticipata il riconoscimento sovietico del governo Badoglio e la successiva torta di Sapete. C'è un problema, cioè che tra il colloquio di Vichinsky con Prunas dell'11 gennaio del 1944 e il riconoscimento passano 2 mesi, e in questi 2 mesi sembra esserci un vuoto di decisione. Oggi in realtà noi sappiamo molte cose in più. Dico questo perché il problema che qui nasce è stato fondamentalmente, lo è anche nella più recentissima storiografia, il ruolo del governo italiano, il ruolo di Prunas, stabilire non soltanto un contatto, ma un vero e proprio approccio, percorso verso il riconoscimento, che carica molto di significato l'incontro tra Prunas e Vichinsky. Noi disponiamo di una lettera di Vichinsky a Molotov, per la verità, successiva al suo incontro con Prunas, e sarebbe forse preferibile, innanzitutto fondare le nostre interpretazioni dell'opinione sovietica su questo tipo di documentazione, piuttosto che fondare su quello che Prunas riferisce, che Vichinsky gli ha detto o non gli ha detto, pure dello sguardo di Vichinsky colto da Prunas. Però anche qui naturalmente ognuno può avere il suo approccio. Resta il fatto che in questa lettera di Vichinsky a Molotov, scritta quando Vichinsky era ancora in Italia, non c'è traccia neanche di una proposta di un'azione sovietica di apertura verso il governo Badoglio. Vichinsky parla di garantire la nostra influenza nel Comitato di Liberazione Nazionale. Terzo punto, la missione di Vichinsky si intreccia con la riapertura di un processo decisionale sulla politica comunista verso l'Italia, la politica del Vichinsky a Mosca, anche qui ritorna l'interazione diplomazia politica comunista, ma anche in un modo alquanto problematico, perché nei documenti che noi conosciamo della fine di gennaio del 1944, di Luigi Sottogliatti, scrivono un progetto nel quale sostanzialmente si adotta una linea diversa da quella prefigurata da Togliatti nella lettera che citavo prima, nell'ottobre del 1943, e sostanzialmente dell'apertura verso il governo Badoglio. È invece una linea di tipo intransigente, no? Divieto dei comunisti di prendere parte all'attuale governo, immediata applicazione del re, eccetera, cioè una linea interamente allineata con la posizione dei comunisti, non solo dei comunisti, fascisti italiani, adottata anche al convegno di Bari, eccetera. Quindi sembrerebbe esserci una divergenza tra, se noi accettiamo l'idea che è molto stabilita nella nostra storiografia, recentemente ribadita con grande enfasi, che Wyszynski, perché la visione di Wyszynski apre la strada alla decisione, si riconosce il governo Badoglio, grazie all'azione della diplomazia italiana, la posizione adottata a Mosca per i comunisti italiani sembra divergente e non più convergente con la diplomazia sovietica. Dico sembra perché secondo me le cose non stanno affatto così. Ed è probabile invece che la missione di Wyszynski giochi un ruolo nel determinare proprio l'inversione di tendenza della politica comunista. Naturalmente non abbiamo delle prove dirette di questo, ma le prime comunicazioni di Wyszynski a Molotov dall'Italia poi durante il suo viaggio di ritorno, le prime comunicazioni raggiungono Mosca già prima del documento di cui parlavo adesso, il documento intransigente di cui studiati venga scritto. Ma non è questo soltanto il punto. Il punto, perché il quarto punto vado rapidamente, è che il 29 gennaio del 1944 Molotov approva il progetto di suo pugno, il progetto sottoposto di Dimitrov e Togliatti sulla linea intransigente dei comunisti italiani. Molotov era, fino a prova contraria, il capo della diplomazia sovietica ed era anche un abituale frequentatore della Dacia di Stalin, che diciamo, frequentava Stalin pressoché quotidianamente. Possiamo anche pensare che Molotov abbia approvato questo progetto senza sentire Stalin, che aveva cose più importanti da fare, forse sì, ma certamente era un personaggio piuttosto autorevole, diciamo, della diplomazia sovietica. Avrebbe approvato il documento di Dimitrov e Togliatti se avesse pensato che questo era, o saputo che questo era in conflitto evidentemente con una possibile apertura prefigurata dalla missione di Wyszynski in Italia, credo di no. Questo situazione di modo è nota, scusate ma un po' di regole squadra di una parte, diciamo, è nota perché il sottoscritto fa questa nota, ma viene completamente ignorata, diciamo, dalla storiografia italiana. Adesso non entro nello specifico di altre questioni, mi limito a osservare che il Wyszynski torna a Mosca a metà del febbraio del 44, incontra Molotov e Stalin, sappiamo che li incontra ma non sappiamo cosa si dicono naturalmente. Niente cambia nella seconda metà del mese di febbraio nella posizione adottata per i comunisti italiani. Tanto è vero che il primo marzo del 44 Togliatti scrisse un secondo documento, sempre sotto la presenza di Dimitrov, che è perfettamente coerente con quello intransigente del mese di gennaio. Nello stesso tempo, un importante funzionario del Ministero degli Esteri sovietico scrive un altro documento per Wyszynski, anche questo è noto, nel quale, sempre il primo marzo del 1944, c'è scritto che, malgrado le avance fatteci da Badoglio personalmente attraverso Prunas, un appoggio al regime attuale può senza dubbio suscitare una reazione per noi indesiderabile per l'opinione pubblica, non solo in Italia, ma anche in altri paesi, che possono in un prossimo futuro trovarsi in una posizione più o meno analoga. Questo era un collaboratore di Wyszynski e scrive il primo marzo del 1944, e questo è un documento noto. La conclusione a cui mi portano queste diciamo puntualizzazioni con cui mi scuso di avervi torturato è che la missione di Wyszynski non aveva aperto semmai aveva prodotto il contrario, cioè un irrigidimento della linea adottata per il Partito Comunista Italiano in chiave intransigente. Il rovesciamento di questa posizione, che non era una posizione di Togliatti, come hanno sostenuto i miei amici colleghi Agarossi e Zaslav, ma era una posizione di Togliatti, Dimitrov, Molotov, cioè era una posizione comune, diciamo, della diplomazia sovietica e della politica comunista. Il rovesciamento di questa posizione avviene in giro veramente autoblu, insomma, prima notte, nell'incontro tra Togliatti e Stalin, incontro che era stato richiesto da Togliatti e non avviene su convocazione di Stalin. Diciamo, questo è quello che sappiamo del percorso estremamente tortuoso della politica e dell'intreccio tra politica e diplomazia. Come vedete, si tratta in realtà di un processo alquanto oscillante, nel quale verosimilmente dobbiamo pensare che i sovietici esitarono sulle scelte da prendere, non furono influenzati granché dalle pressioni di Dumas e Badoglio, ma furono influenzati da decisioni strategiche che riguardavano fondamentalmente i rapporti con gli alleati, e su questo non sappiamo praticamente niente, quali fossero le considerazioni strategiche di Stalin, e anche però il modo di stabilire una politica coerente del Partito Comunista Italiano, cioè di tradurre la linea, la propaganda, diciamo, sull'unità nazionale dei comunisti che andava avanti quindi a giugno, luglio del 41, in una linea politica precisa in un paese che cominciava ad essere liberato dall'oppressione nazista. Arrivo rapidamente, ancora 5 minuti, alle conclusioni. E su questo vorrei dire fondamentalmente due cose. Dal punto di vista dei rapporti diplomatici, questa politica sovietica e politica italiana, questa ricerca di intesa che viene in realtà prevalentemente dall'Italia e poi viene accolta dall'Unione Sovietica, la possiamo considerare un successo, come sembra fare, spesso dare per scontato da parte della letteratura, come se questo riconoscimento diplomatico, che certamente all'epoca fece grandi scalpore, no? Una sorpresa, quindi non ce ne saremo, non so. Ma diciamo, che cosa ha veramente prodotto questo riconoscimento diplomatico? Dal punto di vista dell'Italia praticamente niente. Diciamo, trovo appunto qualche volta singolare, tendenza un po' apologetica della diplomazia italiana. Certamente Brunas era una persona di grande intelligenza, conduce un gioco molto difficile, ma i risultati sono quelli che sono. Diciamo, l'Italia continua ad essere sottoposta a politiche punitive, forse ottiene l'obiettivo anzi di evitare i britannici e anche gli americani di allarmarli, e dall'Unione Sovietica non ottiene praticamente niente. Se guardiamo la cosa dal punto di vista sovietico, che cosa diciamo? Intanto l'Unione Sovietica si disinteressa veramente all'Italia fin dall'estate del 44, perché non erano altre cose a cui pensare, e l'attenzione diplomatica dell'Unione Sovietica finisce un po' nel nulla, ma forse anche l'obiettivo, se l'obiettivo di questa svolta, il conoscimento di Badoglio, insomma, contenuti della lotta esalente, conoscendo c'è bisogno certo di riassumere. Se l'obiettivo era quello di creare in Italia, come io credo, anche un governo autorevole, sufficientemente autorevole per contrastare l'influenza della Gran Bretagna, questo obiettivo non si realizza, non viene anche perseguito più di tanto. Questo per quanto riguarda la diplomazia. Se poi guardiamo alla politica del Partito Comunista Italiano e alla politica comunista, qui devo esprimere sinceramente la mia perplessità sulla tesi di Ennio Di Nolfo e testimoni stasera, quali sostengono che ci fu una coerenza di quegli atti nel perseguire fondamentalmente la linea che poi viene adottata con la svolta di Salerno, ma che questa linea non ottiene gli obiettivi voluti da quegli atti. In realtà non è neanche molto chiaro quali erano gli obiettivi voluti da quegli atti. Perché? Perché la svolta di Salerno non apre una fase nuova, sempre secondo il nostro osservo, ma ne chiude una vecchia, cioè diciamo la conclusione del 25 luglio, diciamo così, e perché suscita una reazione angloamericana indesiderata. Ma diciamo, sono un po' perplesso rispetto a questo tipo di tesi, a questa tesi storiografica, perché tanto per cominciare, la svolta di Salerno di per sé, dal punto di vista della politica sovietica e comunista, non chiude affatto la questione dell'intransigenza e dell'eventuale scenario insurrezionale. Per tutto il 1944, questo è ampiamente documentato, vari attori protagonisti, anche un protagonista molto importante della diplomazia sovietica in Europa, che era Aleksandr Bogomolov, interpreta la svolta come una semplice esperienza che è potuto servire diciamo limitatamente finché c'era il governo Madoglio. Dal momento che il governo Madoglio, a capo Madoglio, non c'è più, il Partito Comunista Italiano deve considerarsi libero da diciamo vincoli di qualunque genere, e a questo proposito Bogomolov critica Togliatti per il suo eccesso di moderazione. Quindi i giochi erano aperti, semmai la politica di Togliatti successivamente nel corso del 1944 a stabilire coerenze con la visione di Stalin, naturalmente, con la visione che Stalin continuava ad avere della politica comunista, e con la quale diciamo che emerge anche nel suo incontro con Churchill dell'ottobre del 1944, è però la politica di Togliatti a mantenere questa strategia di tipo realista e non intransigente. Ma questo è naturalmente un punto importante da tenere in considerazione. Ma il vero punto a me pare un altro, e qui veramente concludo, e cioè alla fine che cosa rimane della svolta di Salerno, anche con tutti i limiti che ci siamo detti e che io vi ho esposto. A me pare che quello che rimane sia soltanto una cosa, però una cosa importante, e cioè sono state poste le basi per una legittimazione del comunismo italiano che non viene soltanto dalla lotta di liberazione, ma è anche una legittimazione di giustizia. Questa è, tra l'altro, la particolarità del comunismo italiano rispetto al comunismo francese, cioè il fatto di avere una, di impossessarsi, diciamo, di una credibilità che non è soltanto sociale ma è anche di tipo istituzionale, ed è proiettata sull'Italia del dopoguerra. Naturalmente ognuno può avere la sua opinione sul fatto che questo sia stato un elemento positivo o negativo della storia italiana, ma questo è. Grazie. Grazie professor Pons, e adesso sospendiamo per 10 minuti, così poi diamo la relazione e abbiamo tempo anche per una discussione.